Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. I vertici di BCE e Fondo Monetario a Berlino per salvare la Grecia. Frattini, non è il momento di egoismi nazionali. Bossi dice no ed elezioni, ma preme sul federalismo fiscale. Fini, è tempo di riforme. E il PDL ha pronto un nuovo lodo Alfano, sarà presentato nelle prossime ore. Addio a Furio Scarpelli, con Age l'anima della commedia all'italiana. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. I numeri 1 del Fondo Monetario Internazionale della BCE sono volati questa mattina a Berlino per convincere i parlamentari tedeschi dell'urgenza di varare un piano di aiuti in favore della Grecia. Il presidente della BCE Jean-Claude Trichet, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn e il ministro delle finanze tedesco incontreranno la stampa tra un'ora e mezza alle 14.30. L'obiettivo e la speranza dei vertici europei è quello di accelerare dopo la giornata nera di ieri. Sembra comunque ottimista in queste ore il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy. The negotiations are going on. They are well. I negoziati con la Grecia, lo state sentendo, vanno bene, non c'è alcun dubbio sulla ristrutturazione del debito. Queste le parole che ha pronunciato questa mattina da Tokyo, dove è in viaggio. Ma intanto anche oggi per le borse europee è un'altra giornata difficile. Torniamo allora a fare il punto con Deborah Rosciani. Sì Anna, effettivamente così, anche se rispetto al profondo rosso toccato a metà mattinata, meno 3% per Piazza Affari, adesso il quadro sta migliorando. Milano perde l'1,94, Londra lo 0,57%, è stata la piazza che da stamattina ha manifestato la maggior tenuta. Parigi meno 1,20, è arrivata a perdere oltre 2 punti, così come Francoforte che adesso perde l'1,26%. In realtà stamattina la piazza più alta tensione è quella portoghese. Lisbona perde 6 punti, mentre regge Atene, dopo il crollo di 7 punti di ieri, oggi il calo per la borsa greca è di circa un punto percentuale. In forte movimento anche il rapporto valutario, l'euro sul dollaro ha confermato i suoi minimi da un anno, adesso il rapporto di cambio è 1,31,99 dopo essere arrivato a toccare 1,31,40, quindi al di sotto della soglia di 1,32. Ovviamente le vendite sono particolarmente accanite su tutte le banche europee in relazione ovviamente all'esposizione dei singoli paesi sui titoli obbligazionari greci. Il rendimento del titolo biennale è schizzato ad oltre il 20%, quello del decennale greco è oltre il 10%, per cui alta tensione soprattutto sui titoli governativi. Questo il quadro in questo momento. Grazie a Deborah Rosciani. C'è una nota intanto proprio in questi istanti del portavoce del commissario europeo al mercato interno. La Commissione europea dice si aspetta che le agenzie di rating agiscano in maniera responsabile e rigorosa. Sotto i riflettori ci sono la Grecia e ormai anche il Portogallo dopo il declassamento di ieri da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's. Allora torniamo a fare il punto però innanzitutto da Atene, dove c'è Vittorio Darold. Buongiorno. Sì. Buongiorno a voi. Vittorio, dicevamo allora, Fondo Monetario Internazionale, BCE, Commissione Europea sono tutti al lavoro, sono a Berlino per cercare di convincere i tedeschi. Lì intanto che succede? Ma innanzitutto questa mattina la Borsa di Atene ha vietato la vendita allo scoperto per 2 mesi per cercare di frenare i tentativi speculativi. Poi c'è il Consiglio dei Ministri che si è radunato sotto la guida di Giorgio Papandreou e a questo punto decideranno un primo ristrutturazione della pubblica amministrazione tagliando i 1050 comuni attuali e riducendoli a 330, con una riduzione anche di personale abbastanza forte e notevole. L'opinione pubblica qui è abbastanza combattiva, anzi direi che il 70% dei greci sono contrari al Fondo Monetario Internazionale. E c'è proprio un paradosso, Vittorio. L'Europa vuol salvare la Grecia, ma i greci non vogliono che l'Europa li salvi e che chieda sacrifici. Esattamente, perché i greci sono un popolo molto fiero e in questo momento non vogliono appunto che essere messi in qualche modo sotto tutela, commissariati, sebbene le loro finanze siano completamente disastrate, perché entro il 19 maggio devono pagare 9 miliardi di bond in scadenza e, come ha detto ieri il ministro delle finanze greco Papa Costantino, non ci sono. Il problema è che se questo tipo di politica di collaborazione con gli istituti internazionali dovesse subire uno stop all'interno dello stesso PASOK, il partito che è al governo, allora effettivamente la situazione cambierebbe e Atene prenderebbe la strada appunto della ristrutturazione del debito con le conseguenze di effetto domino che tutti noi temiamo. E peraltro aggiungiamo, Vittorio, la questione dell'ammontare esatto del prestito del Fondo Monetario Internazionale della Grecia è uno dei temi proprio sul tavolo del negoziato in corso tra Atene e l'istituzione internazionale, quindi anche la cifra precisa. Grazie a Vittorio Darold da Atene. L'altro paese a rischio, dicevamo, è il Portogallo. Qui che succede? I portoghesi si sentono sull'orlo del baratro o no? La pensano o meno come i greci? L'abbiamo chiesto a Clelia Bettini, italiana, ricercatrice all'Università di Coimbra, che vive da anni in Portogallo. No, assolutamente no. Il cittadino comune portoghese si sente in questo momento una situazione di difficoltà, ma non si parla di baratro né di pericoli imminenti. Gli scioperi degli ultimi tempi non sono diversi da quelli che abbiamo sentito negli anni passati. Ad ogni modo non è niente di comparabile a quello che è accaduto e sta accadendo in Grecia. Parliamo di vita quotidiana, parliamo di case. Chi cerca casa oggi ha più o meno difficoltà di qualche anno fa a comprarla? I tassi di interesse dei mutui per comprare casa sono i più bassi degli ultimi anni e dunque chi ha un lavoro un grosso modo stabile, anche se non ben remunerato, può comprare casa in questo momento in Portogallo. C'è stata una riduzione sensibile dei consumi come in Italia e come in altri paesi, conseguenza ovvia della crisi economica mondiale, ma non diciamo a livelli preoccupanti. E la crisi greca preoccupa invece anche l'Italia. Non è il momento degli egoismi nazionali, perché questi ricadranno sugli stati nazionali. Occorre solidarietà europea, così ha detto il ministro degli esteri Franco Frattini, che in queste ore viaggia a Belgrado, al microfono della nostra inviata Cristina Balotelli. Il messaggio ai mercati, che è incerto, diviso e titubante, è un messaggio debole. Paradossalmente noi impegniamo degli sforzi, questi sforzi sono bruciati dai mercati per un atteggiamento di diffidenza o di riluttanza. Ecco perché l'Italia aveva detto sin dal primo momento: questa è la casa comune che dobbiamo difendere. Qualcuno addirittura si è avventurato a parlare di un fallimento dell'euro. Noi siamo oggi alla prova della credibilità dello spazio euro. In Italia una crisi che arriva quando non è ancora risolta, la crisi economica con il 2009 che ribadiscono ancora una volta altri dati, è stato un anno nero per le famiglie. Abbiamo cercato di analizzare la capacità di spesa delle famiglie, perché appunto da questa si evince quali sono le fatiche che maggiormente incontrano e poi le paure, le preoccupazioni che avevano le famiglie. Un dato che emerge è che comunque la quasi totalità delle famiglie ha attraversato un anno nero. Tutti hanno avvertito la crisi, qualcuno in maniera più diretta, quindi ai noi dovendo cambiare proprio il suo stile di vita e ridurre i consumi, e questo è particolarmente accentuato tra coloro che già erano in difficoltà negli anni precedenti, qualcuno anche soltanto appunto andando a fare delle scelte un poco più oculate, però la generalità delle famiglie italiane è stata messa sotto stress. Così la ricerca promossa dalle ACLI e dalla Caritas Italiana sullo stato di salute delle famiglie italiane. Al microfono di Katia Caramelli era il presidente ACLI Andrea Olivero. E il presidente della Camera Gianfranco Fini questa mattina è tornato intanto a chiedere riforme al più presto, riforme anche economico e sociali. Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Il Presidente della Camera è intervenuto all'Auditorium della Musica a Roma alla presentazione del quarto rapporto sulla classe dirigente dell'Università LUISS. Per Fini, se è necessario ricostruire la fiducia nelle elite politiche e imprenditoriali dopo la crisi, queste devono darsi delle priorità. Sono dunque necessarie le riforme, come dicevate da studio, riforme istituzionali ma soprattutto quelle sociali ed economiche. Contro la crisi bisogna ridurre il carico fiscale, migliorare la burocrazia, pensare alla formazione, ossia quegli interventi a lungo termine anche se non portano con senso immediato, dice Fini. Ma questa mattina il presidente della Camera è intervenuto anche sulla situazione greca e sul rischio di contagio. Sentiamo allora le sue parole. Nessun paese si può sentire al di sopra e al riparo da questa onda lunga che può per davvero mettere in ginocchio un'intera economia. Ed è indispensabile un rigido controllo della spesa, proprio perché abbiamo un pregresso debito e una condizione complessiva che non ci consente certo di spendere e espandere. Un controllo della spesa che per Fini però non può portare a tagli lineari, la ricerca ad esempio deve essere risparmiata. E della situazione in Grecia ha parlato anche il presidente della LUIS, Luca Di Montezemolo. Ieri abbiamo assistito al momento più vicino al crollo del sistema europeo, ha detto, parlando di grande responsabilità per le agenzie di rating. Per l'ex presidente Fiat, in Italia e in Europa ci vuole innovazione, non una leadership del declino capace, ma una leadership che sia capace di mobilitare la speranza. Montezemolo a questo proposito cita l'esempio della Fiat e la nuova presidenza il CAN. Infine, anche per il presidente della LUIS, l'Italia deve guardare avanti, la legislatura attuale ha 3 anni di fronte a sé e molte cose da fare, annullando le divisioni, perché, dice Montezemolo, non si cresce votando una volta all'anno. Prime priorità fra tutte la lotta all'evasione fiscale e ridurre gli sprechi della politica. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie ancora per la politica. Intanto ha parlato questa mattina il leader del Carroccio, Umberto Bossi. Le elezioni non si faranno se non le vuole la Lega, dice Bossi. Voglio solo, ha aggiunto, fare il federalismo. E un'altra riforma è intanto già pronta, non riguarda però l'economia ma la giustizia. Elisabetta Fiorito. Si sarebbe pronto un disegno di legge costituzionale su Lodo Alfano, ovvero la possibilità di sospendere i processi per le alte cariche dello Stato. Il provvedimento conterrebbe 3 articoli e prevede lo scudo fiscale per il Premier, Presidente della Repubblica e Ministri. Il disegno di legge prevede che il provvedimento giudiziario vada comunque avanti, il magistrato deve comunicare alla Camera di appartenenza l'avvio del processo e la Camera ha 90 giorni di tempo per decidere se accogliere la richiesta o disporre la sospensione del processo. Restano esclusi i Presidenti di Camera e Senato, altrimenti il provvedimento doveva essere allargato a tutti i parlamentari e verrà presentato in Senato dai capigruppo PDL Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello. Ma non è l'unica novità qui al Senato, intanto si protesta sul disegno di legge sulle intercettazioni, le votazioni inizieranno oggi in Commissione Giustizia di Palazzo Madama, la Federazione Nazionale della Stampa ha indetto una manifestazione in Piazza Navona davanti all'entrata principale del Palazzo per contestare le norme punitive nei confronti dei giornalisti che pubblicano intercettazioni. Il segretario della NFSI Franco Siddi auspica un iter parlamentare approfondito per evitare una legge che può mettere a repentaglio il diritto all'informazione. E per il momento qui dal Senato è tutto, voi studio. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito. Tra poco torneremo ancora alla politica. Prima però da Roma voliamo a Barcellona. Questa sera la finale di Champions League per l'Inter. Giovanni Capuano. Sì, buongiorno da Barcellona, dove il conto alla rovescia è quasi finito, mancano 7 ore e mezza al fischio d'inizio di Barcellona-Inter, che questa sera designerà la sfidante del Bayern nella finale del 22 maggio a Madrid. Il centro della città qui a Barcellona si sta popolando di tifosi interisti che arrivano da tutte le parti d'Italia, saranno 4.500 alla fine, stanno trascorrendo la giornata qui dove mi trovo, nella zona del porto, dove ci sono una serie di spettacoli organizzati e c'è soprattutto il controllo stretto delle forze dell'ordine per una gara che l'UEFA continua a considerare ad alto rischio. I tifosi, noi li abbiamo incontrati questa mattina, sentiamo le loro voci. Speriamo bene. Tra favolosa, ma siamo venuti qua per un solo obiettivo, battere Barcellona. Paura mai. Come finisce stasera? Segna Milito al 90, al centesimo. Sarà una bella battaglia, ma io penso che un gol lo facciamo. L'importante è non prenderne più di 2. È un sogno la finale? Certo. Non parlo, niente pronostici, scaramantico. Scaramanzia. Niente. Non pronostici. Sei già in viaggio per Madrid? No, che viaggio per Madrid? Allora, noi abbiamo sentito le voci dei tifosi, c'è da dire però che tutta Barcellona e tutta la Catalogna si stanno stringendo in queste ore intorno a Messi e compagni, sperano nella rimonta, nella remontada, come la chiamano. I titoli dei quotidiani questa mattina: adesso è il momento di vestire tutti la camisetta e andare a Madrid insieme. Questo ad esempio è il titolo di Sport, questa mattina in edicola, giornali tra l'altro che sono pieni delle polemiche e delle provocazioni di Mourinho ieri in conferenza stampa, Mourinho che è definito l'avversario numero 1 del Barcellona. Questa mattina l'Inter ha fatto un leggero riscaldamento in albergo, c'è stato qualche problema nella notte perché un centinaio di tifosi spagnoli ha tentato di disturbare il sonno dei nerazzurri, sono stati allontanati dalla Guardia Civile. Ieri sera c'erano stati gli sputi e gli insulti riservati al tecnico portoghese, complessivamente però fin qui sta andando tutto bene, il Camp Nou sarà tutto esaurito, 100.000 persone, 5.000 tifosi dell'Inter. Arbitra De Blecker, si inizia alle 20.45, a voi studio. 13 e 19 minuti, GR24 torna con le notizie di oggi. In primo piano i vertici di BCE e Fondo Monetario a Berlino per salvare la Grecia, ma intanto le borse europee sono ancora in calo. Crolla Lisbona, un annuncio atteso alle 14.30. Bossi dice no delle elezioni, vogliamo, dice, il federalismo fiscale. Fini chiede riforme economiche e sociali. Il PDL prepara un nuovo lodo Alfano, sarà presentato nelle prossime ore con lo scudo per Colle, Premier e Ministri. Addio a Furio Scarpelli, con Age l'anima della commedia all'italiana. Queste le notizie in primo piano, ma torniamo con una notizia dell'ultima ora, battuta proprio in questo istante dalle agenzie. La Procura della Cassazione dice no alle coppie che chiedono uno o più bambini in adozione, indicando però di non essere disponibile a ricevere bimbi di pelle nera o di etnia non europea. La Procura della Suprema Corte, sollecitata da un esposto dell'Associazione Amici dei Bambini, ha espresso questo orientamento innanzi alle sezioni unite, che dovranno prendere posizione al più presto, notizia appena battuta dalle agenzie. E veniamo a parlare ora invece di Fiat, perché oggi è il primo round nel confronto con i sindacati sul piano strategico. Ieri l'azienda di Torino ha inviato la disdetta degli accordi in vigore di Pomigliano, primo passo per la definizione di nuovi orari e turni di lavoro nella fabbrica, però c'è in vista anche altra cassa integrazione. Che succede, Vincenzo Miglietta? Buongiorno, ai vertici del Lingotto illustreranno ai sindacati il piano strategico, il nuovo modello di organizzazione del lavoro resi noti lo scorso 21 aprile, la creazione dunque di due società, ma anche gli obiettivi definiti molto ambiziosi, 93 miliardi di ricavi e utili per 5 miliardi nel 2014, 34 nuovi prodotti, la conquista di nuove quote di mercato e soprattutto il raddoppio della produzione in Italia, che passerà dalle 650.000 auto di oggi a 1.400.000. La fabbrica di Termini Imerese sarà chiusa come previsto, Pomigliano e Melfi saranno il cuore italiano della Fiat, non ci saranno però i liberi, ma è proprio il nuovo rapporto con i sindacati su cui punta l'amministratore delegato Marchionne, con una regola di base, la flessibilità nella gestione degli impianti e del lavoro, con la novità dei 18 turni settimanali. Termini Imerese ha comunque un futuro, commenta intanto il ministro Scajola, l'ex presidente della Fiat Montezemolo lo ricorda, nel 2004 l'azienda era sull'orlo del baratro, ora è un esempio di successo. Roma è tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta. È necessario concorrere a definire strategie volte a combattere il drammatico fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro. Intanto l'invito contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, inviato all'Inca CGL per l'iniziativa organizzata a Cesena nell'ambito della giornata mondiale sugli infortuni. Aggiornamenti ci sono ancora dalla Grecia, dicevamo, attesa alle 14.30 le comunicazioni da Berlino di BCE, Fondo Monetario Internazionale. Ma stanno intervenendo intanto in questi minuti un po' tutti i commissari europei. Al momento non vediamo rischi di contagio, ha detto il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari. Non si può paragonare, ha detto, la situazione della Grecia con quella di altri paesi della zona euro. L'Unione Europea, la Commissione e la BCE sono determinati a garantire la stabilità dell'eurozona, ha detto anche il presidente della Commissione Barroso al termine del summit con il Giappone. Torniamo in Italia con la cronaca giudiziaria, con l'inchiesta sugli appalti per il G8 che rischia di finire nel nulla. Non è di competenza di Perugia, così il giudice per le indagini preliminari Massimo Ricciarelli ha respinto una nuova richiesta di custodia cautelare presentata dai PM perugini che lavorano all'inchiesta sugli appalti per i grandi eventi e che ha già portato in carcere a febbraio scorso Angelo Balducci, Fabio De Santis, Mauro Della Giovan Paola e il costruttore Diego Anemone. La loro uscita dal carcere è prevista per il 9 maggio. La procura ha già presentato appello, ma se l'orientamento del GIP dovesse essere confermato, il fascicolo sarebbe frazionato tra Roma Roma e Perugia, rendendo più complicato tutto e pregiudicando forse l'intera inchiesta. Nelle scorse settimane i PM avevano chiesto un'ordinanza di custodia cautelare per il commercialista Stefano Gazzani e per l'architetto Zampolini. Zampolini, per i magistrati, avrebbe acquistato alcune abitazioni per anemone destinate a persone che lo avrebbero aiutato nella sua ascesa. Si indaga in particolare su un appartamento intestato alla figlia di Claudio Scaiola. L'inchiesta, avviata a Firenze 2 anni fa, era stata trasferita a Perugia dopo il coinvolgimento del procuratore Achille Toro, sospettato di aver dato notizie ad Anemone e Balducci proprio sull'inchiesta in corso. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Nei giorni scorsi è stato molto scalpore la vicenda di un trentenne che alla guida ubriaco ha provocato un incidente uccidendo 2 coniugi di 35 anni e il loro figlio di 18 mesi. L'uomo al volante aveva già avuto la patente ritirata in passato 2 volte per aver superato il tasso alcolico consentito e ora è già fuori dal carcere. Nel nostro sondaggio questa mattina vi chiedevamo se secondo voi sono necessarie pene più dure per chi guida in maniera irresponsabile. Il risultato, l'82% di voi ha detto sì. Sentiamo la presidente dell'Associazione Vittime della Strada, Giuseppa Cossanitti Mastroieni. Alle cose bisogna dare il giusto nome e trattarle per il peso che hanno. La cosa più importante nella società proprio è il valore della persona e la relazione umana. Quando questo viene calpestata, le pene debbono essere severe. Ma si rende conto lei cosa significa uccidere e far finta di niente? O noi diamo posto ai valori o altrimenti la strage sulla strada continuerà e noi sosterremo i delinquenti, perché dobbiamo sempre dire giù le mani da Caino, senza aggiungere facciamo in modo che Caino non uccida Abele. Se vanno in carcere hanno un po' di tempo per riflettere sul male compiuto. Ha messo sottoterra per sempre delle persone. Vergogna! Così questa mattina al microfono di Alessandro Milan. 5 dei 6 operatori afghani di Emergency arrestati il 10 aprile scorso nell'ospedale di Lashkargah, insieme, ricorderete, a Matteo Pagani, Matteo Dell'Aira e Marco Garatti, sono stati rilasciati oggi. La notizia è stata diffusa dall'organizzazione. Il 6° operatore afghano resta invece in carcere. Un professionista come lui si mette a fare lo scippo, ma quelle sono cose da ragazzi. Sono sempre i più meglio che se ne vanno. La vita, oggi a te, domani a lui. Ah, ma tocca a tutti, o presto o tardi. Per quello che mi riguarda è meglio dopo che prima. Quella che avete ascoltato è una celebre scena del film I soliti ignoti di Mario Monicelli, l'avrete riconosciuti, con Totò, Vittorio Gassman, tanti altri attori che hanno dato vita nel dopoguerra alla cosiddetta commedia all'italiana. Protagonista di quella fortunata stagione del nostro cinema anche lo sceneggiatore Furio Scarpelli, che con Age ha dato vita a un lungo sodalizio artistico. Scarpelli è morto a Roma, dove era nato alla fine del 1919. Il regista Mario Monicelli, intervistato da Dario Ceccarelli, lo ricorda così. Mi diceva appunto che Scarpelli è stato una delle figure più importanti del cinema degli anni 50, 60 e via. Beh sì, del dopoguerra, il cinema del dopoguerra, della ripresa direi un po' anche dell'Italia e del cinema, è stata una delle figure più importanti insieme ad Age, da Fossuso, Cecchi d'Amico, dal punto di vista degli scrittori di cinema. È uno degli artefici della commedia italiana, tanto vilipesa all'inizio e poi che è stata la colonna portante del cinema. Vabbè, Scarpelli è stato uno dei veramente degli artefici. Con lui ha fatto I soliti ignoti. Ha fatto I soliti ignoti, La grande guerra, L'armata Brancaleone e così via, ne ho fatti moltissimi. Qual era la sua caratteristica più importante che ricorda di più? Aveva molta fantasia che svolazzava e c'era, bisognava un pochino controllarlo, rimetterlo, però era molto positiva questa cosa. E c'aveva anche una cosa di cogliere di tutti i momenti, anche quelli meno impensabili, la punta che contenevano di ironia molto tenero, mai cattivo, mai troppo pungente. Personaggi, sì, come non so, nei soliti ignoti in fondo sono anche teneri nella loro ingenuità. Sì, sono dei poveri così, esposti a tutto, senza difesa, che sono come dei bambini. Perché adesso, è una domanda forse inevitabile, perché adesso non si riesce ad essere più così pungenti e nello stesso tempo anche però narrativi, con quella vena di ironia che ha contraddistinto Scarpelli? Perché per ignoranza, perché chi è incaricato di questo non legge, non studia, non conosce i grandi autori nostri, non li ha Letti, Moliari, Letti, non è informata. Tutto sanno fare, a lei basta una lettura superficiale, poi avanti, su, eccetera, scrivono senza... Noi impiegavamo 6, 3, 5, 8 mesi per fare una sceneggiatura, adesso lo fanno in 15 giorni, un mese. Mario Monicelli così al microfono di Dario Ceccarelli. GR24 termina qui, in regia Pietro Lacorte, un saluto da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione, vi lascio con Italia in controluce, GR24 come sempre torna alle 14, buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.